Allora, torniamo in diretta, siamo adesso in collegamento con un compagno del Teatro del Lido di Ostia che sabato festeggia il suo compleanno di occupazione. Pronto, ci senti? Vi sento, buongiorno a tutti e tutte. Allora, raccontaci un po' come si svolgerà la giornata di sabato. Allora, niente, sabato festeggiamo, nel senso abbiamo deciso di ritagliarci questo pezzo di festeggiamento all'interno, diciamo, di questa grande mobilitazione per la riapertura del Teatro del Lido. Il 26 febbraio effettivamente sarà un anno che da quando abbiamo deciso di occupare, riaprendo questo spazio giù a Ostia, e abbiamo deciso appunto di farlo nella maniera che più ci ha contraddistinto nel periodo di mobilitazione. Faremo dalle 3 una parata cittadina di artisti di artisti del territorio e in generale di tutta la scena romana, partendo dal Teatro del Lido in via delle Sirene 22 a Ostia, direttamente appunto dal teatro, e ci snoderemo all'interno del quartiere di Ostia, tanto proprio per ritornare a parlare all'interno della città. Poi successivamente, diciamo, dopo essere tornati al teatro, verso le 9 avremo un open mic dove appunto a microfono aperto per circa 8 minuti si alterneranno artisti diciamo di vario genere, dalla musica al teatro, passando per altre, diciamo, altre varie attività, forme di spettacolo più o meno convenzionali, per raccontare appunto quello che è il Teatro del Lido, un grande contenitore di spettacolo, di cultura, di socialità, che ha permesso a tanti artisti di diverso genere, anche giovanissimi, soprattutto giovanissimi del territorio, di potersi esprimere. Quindi una giornata all'insegna dell'arte e della cultura il 26 febbraio per festeggiare questo anno di occupazione. E ovviamente sul piatto ci sono sempre le classiche richieste che vanno avanti da un anno, però diciamo che la giornata sarà incentrata più che altro sulla cultura, sullo spettacolo e in generale sull'arte, perché non c'è soltanto la narrazione della vertenza e della battaglia del Teatro del Lido, ma c'è anche la narrazione di una mobilitazione contro il decreto Bondi, contro tutto quello che è Italia, alla cultura, e anche rimarcando soprattutto quello che è stata sono state le ultime esperienze di mobilitazione di novembre e dicembre, e anche per ricordare che non è soltanto il Teatro del Lido che un anno fa ha deciso di porre la questione della cultura, ma ormai è tutto un movimento che si è espresso dalle nuove occupazioni di esperienze nuove che riaprono, come per esempio il Teatro Cinema Preneste di zona Pigneto, fino alle esperienze, diciamo, delle occupazioni che sono nate nuove in tutta Italia, parlando anche delle esperienze del Teatro dell'Opera, di tutte quelle esperienze legate alla mobilitazione degli studenti che chiamano e reclamano una cultura accessibile per tutti e tutte. Quindi niente, il 26 febbraio è un po' tutto questo, dal decreto Bondi fino appunto alla richiesta di riapertura del Teatro del Lido, proprio perché è il momento di rivendicare una cultura accessibile per tutti e tutte. Quindi come dire, invitiamo tutta la cittadinanza romana a presentarsi a Ostia il 26 febbraio alle ore 3 in via delle Sirene 22 per stare con noi e rivendicare una cultura accessibile per tutti e tutte. Va bene, noi ti ringraziamo. Io ti volevo chiedere soltanto in chiusura, visto appunto, eccetto che sabato poi sarà una giornata che parlerà anche di altro, oltre della vertenza specifica del Teatro Lido, invece vorrei cogliere l'occasione da microfoni di questa radio per fare un pochino invece il punto proprio sulla vertenza dello specifico, nel senso che spesso si pensa, no, che quella sia una vertenza abbastanza facile, regalata, nel senso che c'è una condivisione, anche un coinvolgimento del territorio molto largo su una questione posta anche con forza per diverse volte, in cui sembrerebbe, insomma, che tutto vada per il meglio. Invece sappiamo che, dandovi voce più volte all'interno di questo anno di mobilitazioni, che più volte le istituzioni hanno provato a ostacolare questo percorso, per cui vorremmo sapere adesso qual è la situazione, quali sono gli sviluppi che si attendono nelle prossime giornate. Allora, la situazione del Teatro del Lido è di una vertenza che sembrava chiusa, nel senso che noi abbiamo anche dato questa impressione gridando alla vittoria dopo che siamo saliti sul tetto verso novembre e dicembre, perché c'è stato un momento in cui Alemanno e i suoi avevano deciso che bisognava sgomberare questa esperienza, e noi un po' con la salita sul tetto e con quel momento di mobilitazione forte siamo riusciti a bloccare tutto questo, e non solo, avevamo rilanciato e avevamo ottenuto il protocollo d'intesa, il cambio del protocollo d'intesa che permetteva di inserire il concetto di partecipazione dei cittadini all'interno della gestione del teatro, che è uno dei punti fondamentali della nostra mobilitazione, e dall'altra avevamo anche ottenuto la riassunzione dei lavoratori, che era l'altro aspetto che ci interessava parecchio. Questi due elementi, nonché i fondi per la riapertura della stagione, per poter diciamo portare avanti la stagione, erano tutti stati inseriti, ottenuti, diciamo, tant'è vero che anche a bilancio comunale avevamo ottenuto quei fondi che servivano, quindi tutto sembrava risolto in questo senso, al che manca semplicemente che la politica attivi tutti diciamo tutte le voci che formalmente erano state ottenute, e quindi da una parte che questi soldi arrivano, dall'altra parte che i lavori inizino e tutto quanto, se non che i problemi appunto della mala politica sono che da una parte Alemanno deve fare questo rimpasto di giunta perché gli è stompato un po' tutto il suo consiglio comunale per vari motivi che conosciamo tutti, e quindi Croppi, l'assessore, se ne va e arriva questo nuovo assessore Gasperini, che tra l'altro già si è fatto vedere, tra l'altro ha già fatto delle promesse dicendo che comunque i lavori si faranno e tutto quanto, quindi diciamo la situazione è tutta in mano alla politica cittadina. Dall'altra parte il consiglio municipale, che è in mano al PDL, è in mano a un uomo di Alemanno, tendenzialmente è schierato con noi oggi, però il problema poi è che, come al solito, la politica parla, dice, ma poi non si attivano i canali, quindi noi aspettiamo che Gasperini verso marzo appunto faccia un secondo passaggio dopo il primo che ha fatto per insomma darci delle risposte sui temi che noi abbiamo lanciato e su quello che è la vertenza in specifico. Detto questo, la nostra fiducia è ovviamente meno che zero, visto che è da ormai quasi 3 anni che il Teatro del Lido è chiuso, e è chiuso a livello diciamo istituzionale, e non ci vengono date delle risposte chiare su questo tema, quindi noi in questo senso aspettiamo Gasperini, aspettiamo l'assessore che ci dica qualcosa, per il resto continuiamo a lavorare, nel senso che tutti i giorni ci sono compagnie giovani che stanno dentro il teatro, che continuano a fare le loro attività, e il 26 sera facciamo spettacolo, nel senso che non aspettiamo più la politica, perché sappiamo che appunto molte volte sono promesse che non vengono mantenute. L'unica cosa che siamo certi di aver ottenuto sono queste 18 denunce che ci sono arrivate, che ci sono piombate sul gruppone, e anche 18 denunce fatte un po', come si suol dire, senza una logica seria. Oltre le 18 denunce sappiamo anche che molti artisti nostri che sono andati lì appunto a raccogliere le denunce sono stati anche schedati con impronte digitali e foto segnaletiche, come se fossero dei teppisti del peggior rango, quando in realtà chi fa questa battaglia sono appunto lavoratori, sono giovani cittadini, sono appunto artisti e teatranti. Queste diciamo sono le prime risposte che ci sono arrivate, quindi dal punto di vista dell'avvertenza è ancora tutto da vedere come si svolgerà. Noi intanto il 26 febbraio festeggiamo, perché comunque il Teatro del Lido è aperto e viene attraversato tutti i giorni dai cittadini, e questa è la cosa più importante. Va bene, noi ti ringraziamo ancora una volta per il tempo insomma che ci hai dedicato lungo tutto quest'anno dai microfoni di questa radio, vi facciamo un in bocca al lupo per sabato, ricordando l'appuntamento alle 15 in via delle Sirene a Ostia, ci andiamo a risentire magari proprio sabato stesso in giornata. Perfetto, grazie a tutti e a tutte. Ciao ciao.